El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo, o mejor aún, radio para un fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. Синдром слова радио против конца света, или еще лучше, радио для конца света чуть менее глупый и бездарный. La síndrome delle parole radio contro la fine del mondo, o meglio ancora, radio per la fine del mondo un po' meno stupido e mediocre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proprio stronzo. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proprio stronzo.